Radio 24 Reportage. L'Italia che verrà. La spesa alimentare consapevole. Meno sprechi, più tradizione. Di Laura Bettini. Le scelte sul cibo anticipano i comportamenti che i consumatori avranno anche in altri settori. Gli esperti su questo punto concordano. Il cibo ci nutre, ci tiene in vita e in salute, e quando la spesa alimentare cala, allora siamo davvero in difficoltà. Un'altra sera a casa a masticare noie e surgelati. La TV vomitava acqua e colori. Secondo Vincenzo Russo, docente di psicologia presso il Dipartimento di Marketing, Comportamenti, Comunicazione e Consumi dello IULM di Milano, gli italiani hanno vissuto la crisi economica come fosse una crisi esistenziale, perdendo fiducia in ciò che li circondava e rifugiandosi nella tradizione, nei legami familiari e amicali. In questo campo le emozioni ci guidano ancor più del raziocinio, dice Russo. Se volessimo poi alla fin fine semplificare al massimo il comportamento dei consumatori, possiamo dire che possiamo raggrupparli in tre grandi macro categorie comportamentali. C'è un gruppo di consumatori che continua a giocare la carta del lo stesso meno, cioè faccio le stesse cose che ho sempre fatto prima della crisi, ma faccio un po' di meno, per cui compro meno arance o vado in vacanza anziché per 3 settimane, per 2 settimane e via dicendo. C'è un'altra categoria che gioca nella logica del lo stesso a meno, che significa vado a cercare la promozione, e poi l'ultima categoria molto affascinante, che è quella che gioca nella logica del meno più valore, cioè compro meno ma quando compro deve essere buono. E qui il problema, perché non tutti i consumatori hanno la capacità di riconoscere ciò che è autentico, ciò che è buono di per sé, ciò che è sobrio. Quindi qui entrano in gioco le certificazioni, penso, quindi uno va a leggere nell'etichetta che cosa c'è. E secondo me entra in gioco anche la fiducia nei confronti di persone a cui magari non avremmo dato fiducia in altri contesti. Penso al bottegaio che va in collina a scegliere al posto mio. Ci fidiamo di lui perché di qualcuno ci dobbiamo fidare alla fine. Allora, fidarsi dell'amico, fidarsi del brand, fidarsi del bottegaio che ci racconta, è diventato un elemento importante. Non che non lo sia stato in passato, però, come dire, oggi la comunicazione è sempre più pervasa da emotività, e non a caso, proprio perché sappiamo che la prima parte del nostro cervello che si attiva quando abbiamo una stimolazione sensoriale, soprattutto quella che ha a che fare con l'olfatto, col gusto, è l'area del sistema limbico che ha a che fare proprio con le emozioni, e solo dopo arriva una sorta di razionalizzazione. I consumatori sono dei semplificatori, devono utilizzare delle informazioni a volte non particolarmente pregnanti per poter decidere, e sono molti i consumatori che cercano una sorta di intermediazione illuminata. Questa roba americana, vedi? Yogurt, manlatta, mostarda o latte. Questa roba è meglio dell'americana, vedi? Secondo Albino Russo, responsabile ufficio studi economici di Coop, gli italiani sono i migliori consumatori di food al mondo, cioè sono quelli che conoscono meglio le materie prime, anche perché vivono il cibo come identità nazionale. Mazza, zuzzerina. Gli americani, maccherone, m'hai provocato e io li distruggo adesso, maccherone. Io me ne mangio. E allora, per restare italiani e sopportare la crisi, i consumatori si sono mossi su 4 direttrici, spiega Albino Russo. Sono crollate nel momento più duro della crisi tutti quei consumi non necessari dal punto di vista nutrizionale. Pensiamo alle bevande analcoliche, pensiamo agli snack, pensiamo ai dolciumi in parte. Ma a questo fenomeno di eliminazione del superfluo si è sommata quello che noi chiamiamo il downgrading della spesa alimentare, cioè la sostituzione di prodotti più economici a prodotti più costosi. Tipicamente la sostituzione delle carni rosse con le carni bianche, ma anche una riscoperta di prodotti della tradizione che hanno un costo unitario basso e un buon livello di servizio. Ad esempio, nel corso della crisi sono tornati a crescere i consumi di legumi in scatola o di polenta pronta. Questi sono alcuni degli esempi. L'ultimo è certamente la spasmodica attenzione allo spreco alimentare, che ha comportato negli anni 2012 e 2013 soprattutto, quindi negli anni più bui della crisi, un drastico calo dei volumi acquistati, non di quelli consumati, ma delle cose che non passavano dal frigo alla spazzatura. Anche qui un esempio: dall'inizio della crisi il pane venduto nella grande distribuzione si è ridotto di quasi un sesto, ma anche la pasta ha visto una compressione dei volumi venduti. Questo non perché si è mangiato meno pasta o meno pane, è possibile che sia stato anche questo, ma l'effetto principale dipende dal fatto che abbiamo mangiato la sera la pasta del pranzo e il giorno dopo il pane rimasto dal giorno prima. Mi manca un chilo di pace integrale e due etti di... Scelte di vita che gli italiani operano anche quando mangiano fuori casa, dice Stefano Polato, chef del ristorante Campiello di Monselice, ma con una mano, per così dire, anche nella grande industria alimentare del presente e del futuro, visto che ha coordinato il team che nello Space Food Lab di Argotec a Torino ha creato il cibo per la missione spaziale di Samantha Cristoforetti. L'afflusso ai ristoranti è stato continuativo anche in questi periodi, tra virgolette, di crisi. L'unico problema è che il potere d'acquisto si è abbassato notevolmente. Fino a prima del 2008, sì, diciamo fino al 2010, si andava al ristorante, si partiva dall'antipasto e si terminava con il dolce, passando per il primo, il secondo e il contorno. Oggigiorno, insomma, sono cambiate le abitudini. Il cliente viene, innanzitutto è raro che acquisti la bottiglia, ma preferisce il vino al calice, ad esempio, e poi, insomma, si accontenta di un bel primo. E anche noi ristoratori ci siamo dovuti adeguare. Le ultime tendenze vanno verso il concetto del piatto unico, no? Quindi di trovare all'interno di un piatto tutti i prodotti e tutti i nutrienti di cui una persona ha bisogno durante il pasto. L'attenzione alla materia prima, diciamo che la cucina è oggi più che mai l'unico contesto dove si può utilizzare il more is less, non less is more, nel senso che acquistando la materia prima di qualità, faccio sempre l'esempio del gambero rosso. Se io acquisto il gambero rosso di qualità, pescato, e magari non trattato con solfiti o altri ingredienti strani, posso permettermi di utilizzarne tutto, dal carapace alla testa alla coda. Ecco, scegliere la materia prima di qualità significa utilizzarne tutto. La stessa cosa vale per le verdure. La sensibilità del cliente medio si è molto evoluta, nel senso che vedi proprio la ricerca di, fra virgolette, un cibo funzionale, ossia ti chiede, è anche molto curioso nel sapere a cosa serve ad esempio lo zenzero, a cosa serve la curcumina. Diciamo che oggi la differenza la fa il ristoratore o comunque il cuoco che si è aggiornato, nel senso che la crisi è stata un bel banco di prova e purtroppo o per fortuna ha fatto una bella scrematura. Dunque, tu hai lavorato molto e lavori ancora con l'industria alimentare. Verso che direzione tira, diciamo, l'industria alimentare, quella che già guarda al futuro? Io sono partito 3 anni e mezzo fa con il progetto di Samantha Cristoforetti, con lo Space Food, e già in quei tempi incontravo le aziende. Vedevo che stavano già preparando, io l'ho definita la strada parallela, no? Pronti a cambiare rotta nel momento in cui la massa era pronta anche lei a cambiare direzione. Parlo ad esempio di grandi pastifici che erano prontissimi a virare verso la pasta integrale anziché la pasta raffinata. Quindi la grande industria è pronta. La cosa che più fra virgolette dà fastidio è che è in attesa del cambiamento, quindi hanno la soluzione in mano, ma spesso e volentieri aspettano che sia la massa ad indicare la strada da seguire, no? Non so dove, ma arriverò puntuale. Se i ristoratori si attrezzano, come risponde la grande distribuzione di Coop? Di nuovo al vino rosso. Noi stiamo ponendo attenzione sia a questa nuova voglia di salute e benessere degli italiani. La nostra linea biologica ed ecologica va molto bene. Abbiamo introdotto molte referenze vegan o abbiamo una linea in crescita del gluten free, cioè seguiamo con attenzione queste nuove esigenze degli italiani. Allo stesso tempo abbiamo in corso da un anno una campagna che si valorizza il rapporto prezzo-qualità dei prodotti con un abbassamento del prezzo di 2000 referenze nei punti vendita. L'ultima cosa è questa nuova attenzione degli italiani alla tecnologia, che fa parte di quella voglia di cambiamento di cui dicevamo prima e su cui abbiamo iniziato a lavorare con il supermercato del futuro di Expo, con il tentativo di incrementare lo scambio informativo nel punto vendita tra il consumatore, il prodotto e il distributore, cercando anche in quel caso di mettere al centro la persona e la propria capacità di scelta consapevole. Scelte consapevoli e razionali, ma solo fino a un certo punto, precisa il professor Vincenzo Russo dello IULM. Siamo degli edonisti maturi, cioè capaci di andare a cercare la gradevolezza del prodotto con un pochino più di maturità. Il prodotto deve ancora emozionarci. Ecco perché noi per esempio utilizziamo, oltre alle tecniche classiche di indagine, le tecniche che provengono dalle neuroscienze. Quindi misuriamo il battito cardiaco, la pressione arteriosa, la conduttanza cutanea, la dilatazione pupillare, il movimento degli occhi e anche con l'elettroencefalogramma quale parte del cervello si attiva quando una persona sta guardando uno spot, assaggia un vino. Si attiva adesso su questi nuovi temi, diciamo? Troviamo una fortissima attivazione in tutto ciò che ha a che fare con il salutistico, anche se, come dire, la prima reazione è sempre legata a delle stimolazioni anche percettive molto semplici, il colore, la luminosità di un'immagine.